Non ci sono neanche alternative alla ripresa della crescita. Una crescita che non sia spinta dal debito né dalla politica monetaria, ma che soprattutto in Italia trovi nelle riforme, nel cambiamento tecnologico delle imprese, il suo motore. Le banche hanno un posto speciale nel sostegno alla crescita. Se forti, sono il suo pilastro. Ma vogliamo anche banche che tornino ad essere vicine al sistema produttivo come prima della crisi. E non c'è che un modo: saper discernere l'impresa meritevole anche quando i dati non sono a suo favore. La domanda di credito da parte delle imprese aumenta, ma si ha la sensazione che moltissime imprese, specie quelle piccole, dicono che questa domanda non è soddisfatta. Queste sono spesso le stesse imprese che nella parte più industrializzata del paese, dopo aver sofferto nel 2009, cominciano a sentire i primi segni di ripresa, soprattutto attraverso un aumento delle esportazioni. Quindi, insomma, occorre che le banche stiano più vicine alle piccole e medie imprese, che prestino sì con intelligenza e con lungimiranza, e che non prendano assolutamente rischi ragionevoli, ma che stiano vicine a queste imprese.